La versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori, quelli degli studi di Radio 24 Milano vi saluta e vi ringrazio per l'ascolto. Oscar Giannino, naturalmente ascolto in diretto in podcast in questi giorni, ovviamente tra ponti eccetera eccetera, più in podcast che in diretta, ma comunque grazie perché i livelli sono sempre molto elevati. Vi dico subito che oggi approfittiamo dell'uscita di un libro per parlare con l'autrice di un tema che apparentemente dal titolo del libro spingerebbe magari molti di voi che diffidano della cultura come una cosa un po' mattonica, che sta a metà del neologismo tra cose di cui si occupano i matti e però pesanti come mattoni, e invece è proprio scritto in maniera tale da farvi superare la diffidenza. Di che cosa si tratta? Allora io vi dico, il titolo del libro ve lo ripeterò più volte invitandovi a leggerlo, tra l'altro è una lettura agile perché si tratta di una 140 di paginette però scritte con una mano molto rapida e con un tono molto sapido. Il titolo di questo libro è La cultura è come la marmellata. E però uno legge e dice, ma cosa vuol dire? Ecco, allora poi sotto, prima spiegazione, promuovere il patrimonio italiano con le imprese, che uno dice, ah, un pesante manuale di dottrina del marketing culturale, no grazie. No, non avete capito, non è questo, è un'altra cosa. È un libro nel quale in maniera deliberatamente piana, cioè toccando i punti esattamente di un pubblico che non si occupa di promozione culturale, e per farvi capire di che cosa si tratta, quindi una figura del mondo culturale italiano che si è trovato a essere alla testa per 4 anni dell'Istituto Italiano di Cultura a Parigi, quindi con il compito di tentare di non far dimenticare alla Francia dell'istituzione, ma alla Francia dei cittadini, che cos'è l'Italia, non solo nella storia, ma oggi ancora, per l'importanza della sua produzione culturale, ma non solo della sua produzione culturale, di tutte le produzioni, che cos'è l'Italia nel mondo, a Parigi, cioè in uno dei posti che è più convinto di essere lei la depositaria pressoché esclusiva della tradizione, della cultura del mondo. Ecco, si è trovato a doverlo fare per 4 anni, si è trovato a doverlo fare nei limiti, nelle ristrettezze di che cosa significa una dotazione di bilancio molto ristretta e soggetta a tagliamenti negli, a tagli negli anni, con del personale che insomma è lì abbastanza demotivato, che non c'ha poi molta voglia di darsi da fare, e naturalmente poi con tutta l'Italia dietro che è pronta a dire, eccoli, quelli sono dei torbidi e tiepidi e torpidi, più che torbidi, torpidi con la PIB, burocrati di Stato che stanno lì a prendere soldi per non far niente e organizzare 4 mostriciattole. Ecco, allora, quindi questo è la premessa. Io poi devo anche aggiungere, e qui finisce la mia introduzione, l'ammissione di un conflitto di interesse, perché l'autrice non solo la conosco, ma ci ho lavorato insieme, siamo stati compagni di banco, e per me il successo di questa cosa che ha fatto in questi 4 anni a Parigi è stata una cosa che non mi ha sorpreso per niente, perché io dicevo sempre, guarda, tu sei una delle persone più colte, preparate, con le idee chiare che io abbia mai incrociato nella mia vita, e sicuramente farai delle cose straordinarie. Dice, ma no, non è vero, non è vero, non è vero, e invece è così, è stato. Allora, è con noi l'autrice di questo libro, titolo La cultura come la marmellata, Marsilio e l'editore, promuove il patrimonio italiano con le imprese, Marina Valensise, da 2012 al 2016, direttrice dell'Istituto Italiano di Cultura a Parigi. Grazie di essere con noi, Marina. Grazie a voi, buongiorno Oscar, buongiorno agli amici ascoltatori. Allora, io vorrei che tu spiegassi, tu sei innamorata della Francia innanzitutto, perché ti conosco molto bene della sua storia e della sua cultura. Io quando sono passato 2 volte nella mia vita all'Hotel du Galifet, che, dove tu hai dovuto esercitare la tua professione, avevo l'idea di una roba dismessa in cui non avrei mai messo piede. La prima sorpresa è che chi legge il tuo libro vede che quando tu ti rechi per la prima volta a prendere la responsabilità di questo istituto, più o meno non mi sbagliavo a giudicarlo così dal passato, o no? Effettivamente è stata l'impressione che ho avuto anch'io quando sono arrivata un giorno di agosto, di fine agosto del 2012. Ho suonato il campanello, erano le 9 del mattino e nessuno mi ha aperto. E poi ho letto un piccolo cartellino in ottone che diceva che l'istituto è aperto al pubblico dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Allora subito ho pensato che forse gli impiegati dell'istituto consideravano di essere pubblico e non impiegati dell'Istituto Italiano di Cultura. Allora ho detto: qui c'è qualcosa da fare. Mi sono fatto un giretto per il quartiere, che è un quartiere storico che io conoscevo bene, perché è il quartiere dove durante la Rivoluzione Francese e ancora oggi è l'epicentro della vita politica internazionale francese, il quartiere delle ambasciate e il quartiere delle grandi residenze aristocratiche che furono sequestrate e confiscate durante il terrore e poi adibite a ministeri. E dunque mi ripresentai alle 10 e vidi questo aspetto abbastanza desolato di questo palazzo settecentesco in stile neoclassico, completamente abbandonato per l'incuria, con i capitelli imbracati in certi retini che dovevano esprimere appunto il rischio del crollo del dei crollo. Frammenti e bisognava e con uffici contramezzi, resti di allestimenti e bracci tecnici per mettere la lampada. La galleria delle mostre, ecco. Che adesso chiunque va trova questa meravigliosa mostra che abbiamo realizzato alla fine del mio mandato sulla ricostruzione di due ali dell'Hotel de Galisée per 6.000 metri cubi, una cosa fantastica che si potrebbe realizzare perché il piano regolatore, l'ultimo piano regolatore del settimo lo prevede. Bene, all'epoca Il settimo è l'arrondissement per i nostri ascoltatori, non è il settimo, sì. Cavalleggeri, perché sennò non capisco. Sì, il settimo arrondissement, cioè il quartiere, la circoscrizione alla quale appartiene l'Hotel de Galisée. Ebbene, oggi c'è un'esposizione bellissima con espositori, con una nuova installazione fatta da giovani architetti italiani attraverso modalità che io racconto nel libro. All'epoca in cui io arrivai, invece, mi ritrovai una galleria che sembrava quella di un loft newyorkese, con muri di compensato altri 4 metri, spessi 50 centimetri, che nascondevano sia l'architettura a forma ellittica della sala, che è un'architettura neoclassica molto di pregio, sia le tele farnesiane che necessitano di restauri, e io spero che i restauri vengano presto effettuati. Quindi il primo provvedimento fu quello di fare un rinnovamento. Poi nella sala delle conferenze, che adesso è un piccolo scrigno meraviglioso dove troneggia un nuovo pianoforte prodotto a Sacile da Paolo Fazioli, che è un grandissimo industriale del pianoforte, si è affermato negli ultimi 30 anni. All'epoca c'era un'americana, che i vostri ascoltatori sapranno cos'è. Un'americana è una struttura di alluminio, come i tralicci di Segrate, che serve per mettere le luci nei concerti dentro gli stadi. E questo allestimento cozzava completamente contro gli stucchi settecenteschi, contro le boiserie, contro tutta la solennità di questo luogo. E quindi, insomma, adesso hai recuperato ai suoi fatti. Stiamo parlando di un palazzo che ha visto operare Talleyrand, cioè non stiamo parlando di una cosa, insomma, chi ha un'idea del Rue de Bac, dove sta questo posto, conosce un po' e ama Parigi, sa che stiamo parlando di un posto che era molto molto molto molto molto decaduto. Io voglio sapere, ma tu davvero alla prima riunione col personale gli hai detto testualmente, come c'è scritto nel libro: ragazzi, guardate che qua non contate sui privilegi, perché qui un bel giorno potreste trovarvi senza lavoro a vendere ombrelli alle bancarelle davanti alla Galleria Lafayette. Ma tu davvero gliel'hai detto? Sì, io capì, proprio testuale, ci sono i testimoni. Io capì che c'era qualcosa da fare. Per fare qualcosa bisognava dare un colpo, uno shock, incutere un colpo di un'inversione di rotta. E quindi convocai questi giovani impiegati, che sono contrattisti, ma sono lì a tempo indeterminato per aver vinto un concorso come appunto addetti alla promozione culturale, come impiegati nell'Istituto di Cultura, e gli disse: guardate, voi non siete l'Istituto Italiano di Cultura, siete voi, ma voi non siete a rischio tagli, se voi siete a rischio soppressione. E gli snocciolai alcune piccole cifre, cioè quelle del debito pubblico, quelle del prodotto interno lordo, quelle della crescita. Però tu dici che bastarono una serie di cose, tipo la riunione ogni lunedì, cosa che non si faceva nemmeno quella, e poi le cose che si sono messe in moto, che loro hanno visto, a cui hanno cooperato, che sono nate grazie a loro, eccetera eccetera, per far cambiare l'aria anche tra loro. Certo, perché basta stimolare le persone, basta prenderle sul serio. Io dissi loro: non siete a rischio tagli, siete a rischio chiusura, vi ritroverete a vendere ombrelli davanti alle gallerie Lafayette E quindi per evitare questo dobbiamo renderci utili. E per renderci utili che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo lavorare, proporre dei progetti, dei programmi interessanti, non solo per noi, per il nostro narcisismo ego riferito e autoreferenziale, ma per l'interesse nazionale. E a questa piccola paroletta vidi lo sconcerto negli occhi, molto scetticismo, cominciai subito a dire intanto cominciamo a fare delle liste per entrare agli avvenire, agli eventi degli istituti, dobbiamo fare in modo che il pubblico si iscriva, si registri prima. Ah, ma non verrà nessuno. Prima di tutto dobbiamo fare in modo di parlare l'italiano, perché la gente viene qui per sentire parlare l'italiano, perché ha voglia di conoscere l'Italia a Parigi. Ah, ma non verrà nessuno. Sempre con questo atteggiamento del mio... Sì, sì, ma il disarmo del disincanto, sì, deluso. Il contadino calabrese che dice no, non si può, no. Non pensate, poi... aspetta, no, gli ascoltatori adesso ascoltano e dicono ah! Questa è una settentrionale che ha il pregiudizio contro il sud. Marina Valencise è del sud, fiera di essere del sud, per chi la conosce, quindi non c'è problema. Altro che, parlo per esperienza diretta. Però tutti questi atteggiamenti così disfattisti, nichilisti, molto di scetticismo, possono essere debellati coinvolgendo le persone, spiegando loro qual è l'obiettivo, qual è lo scopo, qual è la linea, qual è la visione che regge tutto questo. E naturalmente bisogna avere un'idea chiara. Io avevo poche idee, ma chiare, diversamente da come diceva Longanisi, poche idee ma confuse, poche idee ma molto chiare. Innanzitutto avevo scritto un libro prima di partire che si chiamava Il sole sorge a sud, pubblicato sempre da Marsilio, dove avevo voluto scommettere sulla versione del sud anti-Saviano, stanca di questa geremia, della camorra, tutte cose che esistono. Ho pensato che sarebbe stato utile, interessante, scoprire come facevano i meridionali che restavano nel sud, nelle regioni del sud, e non solo restavano ma avevano anche successo, producevano, riuscivano a fare delle imprese, a fondare delle imprese di eccellenza, a produrre prodotti di qualità. E quindi mi sono incamminato, ho fatto un lungo periplo da Palermo a Napoli, contromano, passando per il Salento, e ho pubblicato questo libro dove ho avuto una prima sensazione di grande euforia, perché ho scoperto centinaia di imprenditori agguerriti che competono sul mercato, che lavorano in condizione eroica, in contesti sfavoriti dalla mancanza di infrastruttura, dalla mancanza di un classe dirigente, dalla mancanza di un senso civico. Eppure, nonostante tutti questi deficit, continuano e riescono a stare sul mercato, a battere la concorrenza straniera, a esportare e aumentare la ricchezza della nazione. E sulla base di questa prima ricognizione nazionale mi sono detta bisogna puntare sulla sinergia tra le imprese e la cultura. Esatto, e lì hai avuto 4 anni per dimostrarlo. Ora, questa maniera di fare promozione culturale, io vi ripeto, Maria Valencise non è una manager d'impresa, perché è una delle più raffinate cultrici della storia politica, di un filone in particolare della storia politica, dell'interpretazione liberale della rivoluzione francese, eccetera, eccetera, che ci sia in Italia. Aspetta un secondo. Eppure nel suo librino troverete che la maniera per fare mecenatismo nasce da un problema all'inizio, perché l'idea era facciamo il corso italiano di cucina. E l'idea è serve un abbattitore termico. Su come si mette l'abbattitore termico e di che tipo all'Hôtel des Galifets, in cui c'è l'Istituto Italiano di Cultura a Parigi, lì inizia a prodursi questa cosa che avete sentito dire da Marina Valencise, cioè il coinvolgimento delle imprese italiane in un mecenatismo che però sia terra, sangue e passione di ciò che nell'economia siamo capaci di fare. Eppure questa signora, ve lo dico io, è una persona che batte il 99% dei francesi che io conosco nella conoscenza della recherche di Proust. Quindi però la cultura del fare innestata su un'estenuata sapienza, io devo dire, ne conosco poco, sono entusiasta, guardate, non c'è stata mai nessuna liaison d'amore tra me e Marina Valencise, però io sono rimasto senza parole a vederla tramutarsi in una manager che spesso le aziende secondo me non hanno di questo livello. Io fossi in una grande azienda italiana prenderei Marina Valencise e direi tu lavori per me, perché altro che tu non solo scrivi libri straordinari ma hai dato una dimostrazione di questo tipo. Lo dico per le grandi aziende che ci ascoltano. Torniamo tra un minuto. La versione di Oscar. Eccoci qui, tornati, cari ascoltatori, dopo il traffico, con Marina Valensise, autrice di questo libro che vi consiglio di leggere, La cultura è come la marmellata, promuovere il patrimonio italiano con le imprese, e il resoconto rapido, però efficacissimo, di come si può trasformare l'efficacia, il successo della proiezione dell'immagine dell'Italia in una cosa che, quando arriva la nominata alla testa dell'Istituto Italiano di Cultura a Parigi, trova purtroppo in condizioni deprecabili, sfiduciata, eccetera eccetera. 4 anni di rilancio, di successo, da parte di chi? Di una intellettuale, giovane intellettuale italiana, che però dimostra di avere un talento organizzativo. E volevo pregarti, Marina Valensise, che è con noi, di spiegare come questa rivoluzione del mecenatismo delle imprese, a cui facevi riferimento prima dell'interruzione sul traffico, nasceva da un problema concreto. Dovevate organizzare questo corso di cucina, rispetto a cui appunto i tuoi collaboratori lì erano molto scettici, non verrà nessuno all'inizio. Il problema era: abbiamo bisogno di un abbattitore termico, e di lì c'è tutta una cosa che nasce. Allora, grazie Oscar per le belle parole che dici, che hai preso per descrivere le mie competenze. Ribadisco la mia formazione umanistica. Certo. E soprattutto il mio interesse per la cultura, per le idee, per i libri, che non è in contraddizione con la capacità manageriale di organizzare, di motivare, di costruire una squadra e di motivarla in vista di uno scopo, ma è da considerarsi la base assolutamente irrinunciabile di qualsiasi attività di management della cultura. Ed è per questo che io ho voluto scrivere questo piccolo resoconto con funzioni di manualetto, perché le università mi cominciano a chiedere di partecipare a seminari, di spiegare la mia esperienza, e restano tutti abbastanza sorpresi dallo scoprire che io non ho una formazione di marketing, che non ho fatto studi alla Bocconi in scienza dell'amministrazione, ma che ho un dottorato in storia, e ho studiato la rivoluzione francese, la monarchia assoluta. Esatto. E quindi voglio dire che sono tutte queste esperienze che hanno contribuito in fondo al successo della mia conversione in manager della cultura, o comunque in manager di impresa, perché l'Istituto Italiano di Cultura, con i suoi 12 addetti, è una piccola media impresa che può fare faville come le ha fatte. L'abbattitore termico: avevamo trovato, quando sono arrivato, un piccolo avanzo di cassa di circa 140.000 euro, che abbiamo subito destinato, perché l'istituto è stato in vacatio in peri per circa 9 mesi prima della mia nomina, e io ora ne spiego anche la ragione, e questo avanzo di cassa è stato subito destinato a spese strutturali. Avevamo cominciato a restaurare alcuni locali abbandonati che dovevano servire per le nuove aule dei corsi di cucina, perché volevamo presentare la ricchezza e la varietà delle regioni italiane attraverso i prodotti dell'eccellenza enogastronomica italiana, e quindi fare un corso di cucina. E il primo suggerimento che ebbi dall'architetto che poi fece questo progetto per ridisegnare questi locali e trasformarli in una cucina fu quello di fornirsi di un abbattitore termico. Io non sapevo nemmeno che cos'era l'abbattitore termico, si pensai tra me, questo è pazzo, chissà che cosa mi vuole rifilare. E andai quindi con molto scetticismo alla dimostrazione di un abbattitore termico prodotto da un'azienda di Treviso, del Trevigiano, fondata da un immenso industriale italiano che è stato emigrato stagionale in Germania, si chiama Florindo Daross. L'azienda è la Irinox, azienda leader nella produzione di strumenti per la conservazione, l'abbattimento termico rapido di temperatura. Allora, ebbi questo abbattitore termico e da lì cominciai la trafila per ottenere, sempre in funzione del mecenatismo di competenza, coinvolgendo le imprese nei nostri programmi culturali e non andando dalle imprese col cappellino in mano a chiedere fondi per fare cocktail o per fare viaggi gratis, esattamente, o in classe extra lusso, andai alle imprese con questa idea: noi siamo un presidio della cultura italiana, dobbiamo rappresentare e promuovere la cultura italiana. Voi siete la cultura italiana, perché la cultura italiana non è solo Dante, Petrarca, Machiavelli, Galileo, Ariosto, non è solo la musica, l'architettura, non è solo tutta la parte storica, archeologia, storia dell'arte, patrimonio storico artistica, ma è una lampadina accesa nelle teste di tutti gli italiani che la mattina si svegliano e dicono: troviamo una soluzione elegante e semplice a un problema complesso, e producono cose innovative. Dove, di alta qualità. Dove, tanto per dirne un'altra, quando Maria Valensise dice una lampadina accesa, c'è anche la lampadina, nel senso che ecco come rivolgersi, spiega in uno dei capitoli, a Mario Nanni, poeta e progettista della luce. Della luce, sì, cioè l'artista, un altro genio, esatto, un altro genio italiano e così via. Altro genio, quindi, italiano conosciuto in tutto il mondo, notate bene. NB Mario Nanni è uno dei protagonisti del rinnovamento del sistema illuminotecnico di tutti, esatto, i principali musei del mondo. Esatto. Voi andate a Chicago, voi andate a Houston, voi andate in India, voi andate a Londra, trovate installazioni, sistemi e soluzioni di Mario Nanni. È più, di, è più famoso, Mario, secondo Nanni me è un elettricista di Lugo di Romagna, che, esatto, ha 50 anni, che si è messo d'accordo con degli amici per fondare la sua società Via Bizuno, chiamata col nome della strada dove è nato, esatto, anche questo un senso di grandissimo omaggio, radicamento, che tutti, di radicamento e di omaggio al territorio che l'ha espresso, oggi che tutti si devono mettere il nome inglese, come dice Paolo. Bravissimo. Isotta, quando sento un italiano che la parola inglese compare in italiano, vedo subito la mano del cretino, con tutto il rispetto, no, però no, voglio, certo, dire, abbiamo questa grandezza che tutto il mondo ci invita, valorizziamo, che non è fatta Mario solo Nanni, di passato, come si, appunto, vede da Mario Nanni. Allora, Mario Nanni, il primo che è entusiasta, non solo offre in comodato d'uso delle lampade che sono prodotte esclusivamente, in esclusiva per l'Istituto di Cultura, perché ci sono soffitti di 10 metri, quindi bisogna illuminare la galleria delle mostre non con i tralicci di Segrate o con dei ponticelli di alluminio con attaccate le lampade dell'IKEA, ma mostrando il nec plus ultra dell'industria italiana e del design italiano. Non solo fa questo, ma addirittura partecipa direttamente mettendoci a disposizione una Poppy Maxi, che è una lampada disegnata dagli architetti dello studio Start, che erano stati invitati da noi come artisti residenti per riprodurre, per rifare l'allestimento dell'Istituto di Cultura, ma prodotta, questa lampada era stata disegnata per loro in occasione del concorso per il riallestimento del giardino del Maxi, il Museo delle Arti del XXI secolo a Roma, in collaborazione col MoMA di New York, ed era stata prodotta, acquisito il brevetto e prodotta da Mario Nanni con degli accorgimenti, eccetera. Quindi Mario Nanni si rivela un altro illuminato imprenditore italiano che capisce il progetto, presta in funzione dell'interesse, ecco, generale, le sue competenze, le sue squadre tecniche, cioè il suo genio la sua opera. E io devo dire la verità, illuminante più che illuminato. Allora, questo libretto, ripeto, Marina Valensise, l'autrice, La cultura come la marmellata, promuove il patrimonio italiano con le imprese. Io ve lo consiglio, Marsilio Editore, perché vi dà esempi concreti di come oggi raffinate donne della cultura italiana diventano esempi di successo per mettere insieme, in uno dei posti della cultura è molto orgoglioso e pieno di pregiudizi come a Parigi, però per mettere insieme una specie di fusione tra arti, tecnica, musica, disegno, grafica, poesia, industria, e ridare un senso a uffici pubblici che altrimenti sono polveri. Questa è la roba che si può fare. Ad averla fatta una straordinaria discepola di grandi maestri storici francesi come Marina Valensise, a me è una cosa che mi riempie d'orgoglio, perché la conosco, le voglio molto bene, e credo davvero che per una multinazionale italiana che lavora sui mercati esteri assicurarsi una come Marina sarebbe rubare un patrimonio che lo Stato ha già usato e che bisogna mettere a impiegare, perché questi sono patrioti nazionali, non nazionalisti, che vivono in un cosmopolitismo fatto però della piena consapevolezza e dell'orgoglio di cos'è oggi l'Italia, non solo di che cosa è stata. Viva Marina Valensise, leggete il suo libro.